2. La Galleria dei Presidenti. Questa prima galleria è dedicata alla storia delle aziende che hanno contribuito alla costruzione di Safran, Gnome, Leron, Gnome e Trone Snecma. I ritratti dei loro dirigenti sono esposti sulla destra. Avvicinatevi al primo ritratto, quello di Louis Seguin. È con lui che tutto ebbe inizio. Nel 1905 Louis Seguin fondò la società Gnome, che inizialmente produsse un motore per imbarcazioni e, a partire dal 1908, motori aeronautici. Il ritratto successivo è quello del suo diretto concorrente, Louis Verdet. Nel 1912 Louis Verdet fondò la società Leron. Le due aziende si fusero 3 anni dopo, dando vita a Gnome et Trone, di cui Louis Verdet divenne direttore generale. Passiamo ora al ritratto di Paul Loeswiler. Pilota eccezionale e pioniere della fotografia aerea, risanò la situazione finanziaria dell'azienda dopo la Prima Guerra Mondiale, fino a farne il leader mondiale delle esportazioni di motori aeronautici nel periodo tra le due guerre. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Gnome et Trone fu nazionalizzata e diede origine a Snecma. Avanzate ora fino al ritratto di Henri Desbrouwer. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Henri Desbrouwer fu uno degli artefici degli aerei militari. Contribuì al successo dei turbojet Attar, che resero celebri gli aerei militari francesi. Soffermiamoci anche su René Ravot. Negli anni 70 fu promotore dei motori destinati ai moderni aerei civili. La sua scelta di cooperare con l'azienda americana General Electric fu determinante per lo sviluppo di Snecma. Forse riconoscerete il prossimo ritratto davanti al quale ci fermiamo, quello del capitano di industria Louis Gallois, presidente e amministratore delegato di Snecma dal 1989 al 1992. E Jean-Paul Becat, poco più avanti? Jean-Paul Becat consentì il consolidamento dell'industria francese delle attrezzature aeronautiche attorno a Snecma, integrando motori per razzi, motori per elicotteri di turbomeca, carrelli di atterraggio di Messier d'Auty, le attività aeronautiche di Labinal e le attività di servizio di Socata. Nel 2005, Jean-Paul Becat fu il creatore di Safran, nata dalla fusione di Sagem e Snecma. Concludiamo con il ritratto di Jean-Paul Herman, che diede a Safran la dimensione di un gruppo internazionale ad alta tecnologia. Durante il suo mandato, il numero dei dipendenti passò da 30.000 a 70.000. Nel 2021, Olivier Andriès è stato nominato presidente e amministratore delegato del gruppo. Laureato all'École Polytechnique e all'École des Mines, ha guidato una fase di forte crescita, portando il numero dei dipendenti da 70.000 a oltre 100.000.